Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, la procura di Trieste ha deciso, il 26 gennaio sarà conferito l'incarico per la riesumazione del cadavere che avverrà nei giorni successivi. D'accordo il fratello e il marito di Liliana. Si cercano novità su tempi e modi del decesso. Mio figlio era una persona che adorava aiutare gli altri, parla la madre di Ezechiele Mendoza, il 31enne ucciso a Udine la notte di Capodanno. Per il 34enne accusato del delitto, esclusa l'ipotesi della premeditazione. Lutto, dolore e polemiche dopo l'incidente con 3 morti sulla Cimpello Sequals. Quella strada è troppo pericolosa, la regione promette interventi in breve tempo. Per il rilancio di un'economia che deve fare i conti con le contrazioni dei mercati serve trovare nuovi spazi all'estero. La ricetta del presidente regionale di Confindustria Pierluigi Zamò è l'analisi della crisi della manifattura. A Clauzzetto di nuovo chiusa l'ex provinciale 22, principale via d'accesso al paese. A giorni l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dopo la frana di novembre. Il sindaco Cescutti, il cantiere dovrebbe terminare nel giro di 3 settimane. Nel Pordenonese salgono a 10 gli ambulatori sperimentali di assistenza primaria. Seguono 13.000 pazienti che non hanno più un medico di riferimento. Ma l'ordine dei medici avvisa non può che essere una soluzione temporanea. Le azzurre dello sci si allenano sullo Zoncolan, tanto entusiasmo per Federica Brignoni e Marta Bassino che preparano gli slalom di Coppa del Mondo del fine settimana in programma a Kranjska Gora. Scherma a Udine la 5ª tappa della Coppa del Mondo Under 20 con 1.000 atleti in arrivo da tutto il mondo. Tra loro il friulano Alberto Paoletti a rappresentare una regione che vede una crescita costante di giovani che si avvicinano a questa disciplina. Le 7:20 di giovedì 4 gennaio, buongiorno da Daniele Lettige e Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è poco nuvoloso sui monti, nuvoloso su pianura e costa. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 9 gradi, a Gorizia 7, a Udine 6 gradi e mezzo, Pordenone 3 e mezzo. A Tolmezzo e Tarvisio 0 gradi, Forni di Sopra meno 1, Piancavallo meno 1 grado e mezzo, Sappada meno 3, sul Monte Lussari 0 gradi, Monte Zoncolan meno 1 e mezzo. Tornando sulla costa grado 8 gradi e mezzo, a Lignano 6. Queste le previsioni. Per oggi cielo poco nuvoloso sulla zona montana, maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse su pianura e costa, specie a est, ma nel pomeriggio saranno possibili schiarite. Su pianura e costa possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Ora le notizie. La procura di Trieste ha deciso tempi e modi della riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic, trovata senza vita 2 anni fa. Il 26 gennaio il conferimento dell'incarico, attese nuove prove per chiarire i motivi del decesso. L'annuncio del procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, che ha reso nota la decisione di riesumare la salma di Liliana Resinovic secondo la disposizione del sostituto procuratore Maddalena Chergia. Un provvedimento già indicato come opportuno dalla consulente della procura, il medico legale Cristina Cattaneo, e di cui sarà conferito incarico il prossimo 26 gennaio. Concordi le parti offese e i loro difensori su un'iniziativa che potrebbe portare a una svolta nelle indagini sulla 63enne triestina scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, con la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in 2 sacchi, infilati uno dall'alto e l'altro dal basso. Del resto, l'esito dell'autopsia lasciava aperti dubbi e il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di rimandare gli atti al pubblico ministero per un approfondimento che tutti ci aspettavamo, avendolo persino suggerito difensivamente, ha dichiarato Paolo Bevilacqua, difensore del vedovo della Resinovic, Sebastiano Visintin, che a sua volta commenta. Se la cosa può essere utile, che possa dare delle risposte a quello che la dottoressa Cattaneo sta cercando, ben venga, non sono per niente contrario. Certamente il dolore è forte. Dello stesso avviso anche Federica Obizzi, legale della nipote Viviana Resinovic, che ritiene opportuna la riesumazione per chiarire le circostanze contraddittorie emerse al ritrovamento del cadavere. C'erano anche altre circostanze che non combaciavano, che rendevano poco credibile sin da subito la circostanza di un suicidio, come ad esempio la mancanza delle impronte digitali sui sacchi. Consenziente infine anche il fratello Sergio Resinovic, che come gli altri familiari ha ribadito il proprio dolore, ma ha sottolineato di voler sapere la verità su quanto avvenuto. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha collaborato con gli inquirenti ed è esclusa al momento la premeditazione a carico del 34enne in carcere a Udine con l'accusa di aver ucciso, sempre a Udine, un 31enne durante una festa di Capodanno. La madre lo ha ricordato e ha confermato invece l'ipotesi della lite per amore. Mio figlio era una persona che adorava aiutare gli altri, ci tengo a ribadire questo. Gli amici, 4-5 giorni fa, lui ha fatto il trasloco a questo suo amico che lui chiamava suo amico. Lui era amico di tutti, tutti erano i suoi migliori amici. Ricorda così Ezechiele, vittima dell'omicidio di Capodanno, sua mamma, Daisy Feliciano. I due vivevano assieme a Bressa di Campoformido. Il 31enne aveva iniziato a lavorare all'ABS da poco più di 2 mesi. Gli piaceva andare in discoteca a ballare, anche per questo, indica Daisy, Ezechiele si era allontanato dal culto mormone della madre, pur non perdendo l'altruismo che lo caratterizzava. I primi attriti tra Ezechiele e l'uomo accusato del suo omicidio, secondo la signora Feliciano, qualche mese fa, Ezechiele avrebbe convinto un amico a farsi avanti testimoniando contro Anderson Vasquez di Press in un'altra controversia giudiziaria. Ultimamente la cosa si è aggravata perché mio figlio, da un mese e mezzo, usciva con una donna che era la ex di questo uomo. La donna non crede all'ipotesi della lite, bensì di un'aggressione premeditata portata a termine con l'ausilio di alcuni amici. Queste 2 persone o 3 lo hanno distratto. Mio figlio era un uomo grande, più alto di lei. Mio figlio era forte e aveva un coraggio di leone. Chiedo ferventemente alla giustizia italiana di indagare, di arrivare alla verità. Al momento la procura però esclude l'ipotesi di premeditazione. La richiesta di convalida dell'arresto al GIP, che si pronuncerà nelle prossime ore, contesta l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'evasione perché l'indagato era ai domiciliari, da cui era evaso per andare alla festa. Massimo Lia, procuratore della Repubblica di Udine. Il soggetto è stato molto collaborativo, ha parlato di un diverbio verbale accaduto durante questa serata, di un atteggiamento aggressivo della sua controparte al quale ha reagito colpendolo al volto. Vasquez di Press sarebbe fuggito mentre Ezechiele era ancora vivo, apprendendo solo durante la sua fuga del decesso. Si indaga sul ruolo di altri soggetti nel facilitarla, anche con l'uso di più automezzi. Mauro Bonometti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Udine. L'indagine non si ferma con l'arresto perché è necessario porre dei punti fermi e ricostruire accuratamente tutto quello che è successo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lutto, consternazione ma anche polemiche sulla pericolosità della Cimpello Sequals dopo l'incidente costato la vita a 3 persone. A Pinzano al Tagliamento è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie della volontaria della Croce Rossa di 59 anni che ha perso la vita nello schianto tra l'ambulanza che stava conducendo e un tir. Da oltre 20 anni era nella famiglia della Croce Rossa nella sezione di Maniago e dal 2010 Graziella Mander era autista di ambulanza, un servizio che svolgeva 2 volte a settimana. Un vulcano di idee e iniziative, oltre a essere impegnata come consigliera. Sono ancora increduli i colleghi volontari che sin dal momento della tragica notizia sono supportati dalla presidente regionale Milena Cisilino. Si è precipitato subito a Maniago il presidente del comitato della Croce Rossa facendo oltre 22 ore di strada. Pietro Fortunaso, presidente comitato Croce Rossa Italiano a Maniago. Eravamo una grande famiglia, eravamo prima di tutto amici. Si scherzava, si rideva e si lavorava. Si lavorava e si riusciva a trovare il tempo per fare tutto e di più. E il tempo veniva rubato principalmente alla famiglia. Cosa vi siete detti oggi? Niente. Ci siamo guardati e abbracciati. Intanto si riaccende la polemica sulla pericolosità della strada Cimpello Sequals e sui ritardi sul posizionamento degli autovelox. Andrea Carli, consigliere regionale. Io credo sia importante adesso porsi la questione sulla sicurezza della strada perché i morti cominciano a essere veramente tantissimi. Questa in questo momento è una strada che è piuttosto larga affinché la gente possa sentirsi sicura di fare sorpassi anche azzardati, ma è troppo stretta per garantire la sicurezza. Cristina Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio. Quello che si può fare per cercare di limitare soprattutto il rischio di incidenti frontali durante i sorpassi e l'eccesso di velocità è quella di adeguarla, no, alle caratteristiche di una superstrada, un po' come è stato realizzato il primo pezzo, quello di collegamento tra la 28 a Cimpello fino al nodo di Pian di Panico. Sarà imminente, dice l'ammirante, il posizionamento degli autovelox. Ritardi causati dai tempi necessari al concessionario della strada, ossia FVG Strade, per portare la corrente e la fibra nei punti individuati. Maniago, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Ruscio, 60 anni, originario di Bari, è il nuovo questore di Gorizia. Prenderà servizio lunedì 8 gennaio. Sostituisce Paolo Gropuzzo, andato in pensione il 31 dicembre. Per Di Ruscio si tratta di un ritorno nel capoluogo isontino da Trento, dove si era trasferito 3 anni fa. A Gorizia aveva prestato servizio per molti anni come vicario del questore e sovrintendente della divisione anticrimine. A 79 anni si è spento l'ex consigliere regionale Boris Iskra, laureato in filosofia, insegnante ed esponente del PCI triestino. Iskra fu eletto nella 4ª e 5ª legislatura, ricoprendo la carica di consigliere regionale dal 1978 al 1988. A maggio avrebbe compiuto 80 anni. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordini, in una nota, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell'intera Assemblea legislativa. Obiettivo nuovi mercati. Il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, per Luigi Zamò, fa il punto sulla situazione economica della manifattura e interviene sulle grandi crisi aziendali Wärtsilä ed Electrolux. L'economia è in una fase di contrazione della domanda e c'è un trimestre difficile all'orizzonte del presidente di Confindustria regionale Pierluigi Zamò. Lo stimolo proposto all'azienda è quello di trovare nuovi mercati e di imparare a collaborare meglio e di più, e questo vale soprattutto per quelle del legno arredo, che per paradosso hanno beneficiato della pandemia e che adesso si trovano senza i mercati di riferimento. La Russia, sappiamo, non c'è più, la Cina molto meno, quindi bisogna trovare delle soluzioni nuove. È chiaro che la dimensione piccola in questo caso penalizza. Su questo panorama si stagliano le due grandi crisi manifatturiere e Zamò non ha mezze misure per la proprietà finlandese, che ha deciso di dismettere Wärtsilä, e per il suo atteggiamento nel corso della trattativa. I proprietari di Wärtsilä hanno compiuto un atto assolutamente non previsto, non prevedibile e secondo me errato. Stiamo tentando di risolvere la situazione, che comunque rimane molto problematica per l'assurdità della proprietà. Anche Electrolux ha annunciato un piano di esuberi a livello globale. Solo a metà del mese si capirà in che modo colpirà l'Italia e Porcia in particolare, ma sulla fabbrica di lavatrici Zamò si mostra ottimista, soprattutto per la qualità dei lavoratori. Si troverà sicuramente delle soluzioni, perché le capacità delle maestranze friulane sono ampie, dimostrate, e secondo me Electrolux farà bene a investire di nuovo in queste zone. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Enovis Corporation, società in crescita nel campo della tecnologia medica con sede negli Stati Uniti, ha concluso l'acquisizione della friulana Lima Corporate S.p.A., azienda ortopedica focalizzata sul ripristino del movimento tramite innovative soluzioni protesiche. Lo annuncia la stessa Enovis. È stata così formalizzata l'acquisizione, che era stata resa nota qualche mese fa. La Regione ha attivato un bando da 1 milione di euro per attrarre investimenti privati e favorire l'occupazione. Con questo nuovo bando, ha spiegato l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini, si intendono creare le condizioni per generare un concreto e duraturo effetto di attrazione di imprese esterne alla nostra Regione, per creare condizioni stabili di crescita e sviluppo del tessuto produttivo locale. I termini per accedere agli incentivi resteranno aperti fino al 29 marzo prossimo. A Clauzetto è cominciato ieri un nuovo periodo di disagi a causa della frana avvenuta ai primi di novembre, che incombe sull'ex strada provinciale 22. La strada, principale via di accesso al paese, è infatti chiusa totalmente al transito in vista dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza da parte della Protezione Civile. Abbiamo sentito il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti, per chiedergli come si svolgeranno i lavori e quali saranno le tempistiche per la riapertura al transito. Da ieri mattina alle 7 la strada è nuovamente chiusa H24 in funzione dell'avvio del cantiere della protezione civile che sarà installato in questi giorni. Riguarderà l'attività di rimozione del materiale legnoso e anche del terreno che in conseguenza della frana sono precipitati sul fondo del Rio di Molino. Intervento che sarà poi funzionale in un secondo momento alla posa delle condotte che elimineranno definitivamente il rischio di formazione di questo invaso anche in caso di ulteriore caduta del materiale dal pendio. Nel concreto per gli abitanti questo significa tornare a dover fare il giro che hanno dovuto già fare nel periodo tra novembre e dicembre. Esattamente, torniamo purtroppo a questa situazione che vede la deviazione, quella più scorrevole, più agevole, scendere attraverso Vito d'Asi e Pinzano, c'è la variante comunale su Celante, però è assolutamente un disagio rispetto al quale comunque mi sento di dire portiamo pazienza in vista dell'esecuzione dei lavori. Quando è prevista la conclusione dei lavori? C'è un'ordinanza di EDR Pordenone che prudenzialmente fa riferimento al 29 di febbraio. In realtà i tempi saranno più brevi. La protezione civile, a quanto mi è stato riferito, conta di concludere la prima fase di rimozione del materiale da Rio Molino già verso il 19 di gennaio, quindi un paio di settimane di lavoro. La frana che ha provocato la chiusura della strada è anche il sintomo di problematiche sul territorio che si fanno sempre più frequenti. Da sindaco di un paese di montagna, che situazione vede riguardo a questo aspetto? C'è una situazione come questa della frana di Clauzetto che è determinata sempre di più da quelle che sono due circostanze concomitanti, e da un lato l'abbandono del territorio, di certe parti del territorio, e dall'altro l'estremizzazione degli eventi climatici che si verificano. La sanità, basta con gli interventi tampone. Per risolvere la situazione di crisi dei pronto soccorso serve un piano di investimento straordinario. Lo sostiene Michele Piga, segretario generale della CGIL di Trieste, in una nota in cui chiede ad Asugi e alla Regione una chiara inversione di rotta rispetto alle politiche attuate negli ultimi anni, che stanno accelerando, continua, il declino della sanità pubblica in provincia. L'intasamento dei pronto soccorso, spiega Piga, è solo la punta dell'iceberg, un collo di bottiglia che rivela l'incapacità della medicina territoriale e del sistema ospedaliero di dare una risposta alla domanda di salute delle persone. Anziché affidarsi a correttivi temporanei, serve potenziare la rete dei distretti, tornare a rendere attrattiva la medicina di base e di emergenza, fermare l'esodo dei professionisti verso il privato, incentivare il personale e migliorare le condizioni di lavoro nei reparti d'emergenza, ha concluso. Intanto cresce sul territorio dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale il numero degli ambulatori sperimentali di assistenza primaria, le strutture create per tamponare la carenza di medici di base. L'ultimo a partire in ordine di tempo è stato quello di Fiume Veneto, aperto con il nuovo anno per accogliere i pazienti del dottor Massimo Romano, andato in pensione. Contemporaneamente è arrivato il raddoppio di quello di Fontana Fredda. Il totale degli ASAP, gli ambulatori sperimentali di assistenza primaria, è ora di 10 strutture sul territorio dell'ASFO, alle quali fanno capo circa 13.000 pazienti rimasti privi del medico di base. Quasi una quarantina il totale in regione e non bastano. Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici di Pordenone. In questo momento ci sono circa 200.000 cittadini del Friuli, Venezia, Giulia, che non hanno un medico di medicina generale. Nella nostra regione, oggi come oggi, mancano circa 130 medici. L'anno peggiore, che entreremo più in sofferenza, sarà il 24, il 25, però con l'ASAP e anche con la buona volontà e lo spirito collaborativo di qualche medico, sicuramente ci saranno medici che sceglieranno anche di entrare in campo. Gli ASAP sono formati da 3 o 4 giovani medici che si alternano per fornire tutte le funzioni della medicina generale, ma si tratta di una soluzione temporanea. Questi ASAP sì, riescono a dare risposte adeguate per l'obiettivo che ci proponiamo. Certamente è una risposta a breve termine. L'obiettivo finale sarebbe che questi giovani medici un giorno possano scegliersi con un incarico intanto provvisorio e dopo entrare in maniera ufficiale nel percorso della medicina generale. Gli ostacoli tuttavia non mancano. Che cosa vuol dire scegliere un incarico provvisorio? pone al giovane medico tutta una serie di oneri. Cioè quel giovane medico deve fare un contratto di affitto e tutte le utenze necessarie, con il rischio poi che dopo un anno un qualsiasi medico che chiede un trasferimento dalla nazione Italia possa venire a soppiantare quella struttura provvisoria. È logico che noi, quando scegliamo il nostro modo di operare, vogliamo scegliere un posto sicuro. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 2024 è l'anno del Friuli Venezia Giulia come regione d'onore della NIAF, la National Italian American Foundation, associazione culturale statunitense senza fini di lucro, nata nel 1975 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti. Dopo la designazione ad ottobre, ora c'è stato l'annuncio ufficiale e il consiglio di amministrazione della NIAF pianifica il viaggio annuale della missione in regione a giugno. Il Friuli Venezia Giulia farà da sfondo al programma Voyage of Discovery dell'ambasciatore della NIAF Peter Secchia, con 48 studenti universitari italo-americani. Una delegazione del Friuli Venezia Giulia invece parteciperà al NIAF New York Gala il 18 aprile. I tesori culturali della regione saranno protagonisti anche del Gala NIAF a Washington il 26 ottobre, quando NIAF celebrerà il suo 49esimo anniversario. La regione sarà inoltre presentata durante tutto l'anno sui social media della NIAF. Alle 7.38 lo sport, sci alpino, primi allenamenti sullo Zoncolan per la squadra azzurra femminile di Coppa del Mondo, che si prepara alla doppia tappa di Krajnskagora. Hanno impiegato quasi più tempo a firmare autografi sui caschi e fare i selfie con i tifosi che ad allenarsi. Federica Brignone e Marta Bassino sbarcano sullo Zoncolan per preparare le gare di Coppa del Mondo del fine settimana nella vicina Krajnskagora, e l'entusiasmo degli appassionati è alle stelle. Tutti ad ammirare le traiettorie delle loro curve tra le porte larghe della pista 1 appositamente preparata, un tracciato cronometrato da una quarantina di secondi. Un paio di giri con la tigre valdostana pronta ad affinare le proprie armi da leader della classifica di gigante. Sabato, sul tracciato sloveno del Podgoren, bisognerà riconfermare stato di forma e fare il risultato per inseguire la sfera di cristallo generale. Federica Brignone. È un ottimo periodo da inizio stagione e sto cercando di riuscire a mettere tutte le energie su quello che mi serve, su share forte, e ovviamente mi viene curve meglio, curve peggio, comunque ho buone sensazioni e vedremo come sarà a Krajnskagora. Con le due fuori classe azzurre, approvate la velocità, anche la tarvisiana Lara Della Mea reduce dal suo miglior risultato in Coppa del Mondo di Gigante la scorsa settimana a Lienz. Sono contentissima di partecipare anche al Gigante di Krajnskagora, è sempre stato un po' un mio sogno da quando ero piccola, quindi sono felicissima. Niente, adesso siamo qua allo Zoncolan, dove veramente abbiamo delle condizioni ottime per allenarci. E l'abbraccio con i tifosi è esploso dopo il saluto ufficiale della regione alle azzurre portato dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Evento che ha visto la partecipazione anche della nazionale svedese dopo la scelta dello Zoncolan quale quartier generale per gli allenamenti fino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina del 2026. Sara Hector, campionessa olimpica della nazionale svedese. I'm very happy to be here in Zoncolan. Siamo felici di essere sullo Zoncolan per allenarci. Qui ci troviamo molto bene e siamo contenti della partnership con la regione fino a Milano Cortina 2026. Lost in the future as well. Zoncolan, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia appena giunta in redazione: la direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro di beni per oltre 220.000 euro nei confronti di un cinquantenne residente a Napoli, colpito nel tempo da diversi provvedimenti cautelari personali e arrestato nell'ottobre 2020 dopo il sequestro di un'arma da fuoco e del relativo munizionamento, tutto detenuto illegalmente, e poi gioielli, orologi di valore, una considerevole somma di denaro. Tutto, secondo gli investigatori, frutto di attività di usura e di estorsione, aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso. Il sequestro è arrivato dopo la proposta presentata dal procuratore distrettuale di Trieste sulla scorta di accertamenti svolti dalla direzione investigativa antimafia giuliana, da cui è emersa la riconducibilità in capo al cinquantenne di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Sono le 7.42, apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal piccolo di Trieste. Lilli sì alla riesumazione, il titolo di apertura della prima pagina del quotidiano triestino. Il caso Resinovic ha un nuovo capitolo con la decisione presa dalla procura sulla base della relazione della consulente Cattaneo. Si riapre dunque il caso, necessari nuovi esami. Il marito Sebastiano Visintin dice: credo si sia suicidata, l'amico Claudio Sterpin per me è stata uccisa. La cronaca cittadina nel titolo di spalla che riguarda la mancata accoglienza dei richiedenti asilo. Ieri c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine al Silos, vicino alla stazione ferroviaria. Trovati 125 migranti, di cui solo 13 irregolari e portati in questura. Si tratta della quarta operazione di verifica a partire da settembre. Sul piccolo richiamo in prima pagina anche per la transizione di genere. All'ospedale di Cattinara sospese le operazioni per il cambio di sesso. Al centro disforia di genere di Trieste, polo d'eccellenza a livello italiano, interventi sospesi e liste d'attesa bloccate. Il direttore generale di Asugi Poggiana parla di attività chirurgica sotto pressione e assicura che gli interventi saranno riattivati appena possibile. Sul piccolo anche la bella storia dei Cagers, la squadra di basket nata al carcere del Coroneo per coinvolgere i detenuti. Squadra guidata da una star della pallacanestro triestina e nazionale, Stefano Attruia, insieme a lui Donato Avenia, ex Roma e Reggio Calabria, tre volte nazionale, che arriverà oggi nel team per curare la preparazione, Caterina Todeschini. Attualmente sono 7 i detenuti che stanno partecipando al progetto e altri sono in arrivo. Sanità, mancano 130 medici, apre con questo titolo il Messaggero Veneto, edizione di Udine. La carenza dei dottori di famiglia penalizza 190.000 pazienti rimasti senza punti di riferimento. A centropagina una fotonotizia per le vacanze di Natale. I friulani scelgono la montagna, presenza in aumento del 18%. In un richiamo invece i dati sui redditi dei consiglieri regionali. Federica in testa, Ballock ultimo. La cronaca con il delitto di Udine, l'arrestato confessa l'omicidio, la lite per rancori e gelosia. E poi, in arrivo pioggia e vento, rimandati molti pignarui nel comune di Udine, alcuni slittano al 7, altri al 13 gennaio. Infine la cultura, i viaggi e gli affari di Marco Polo nel libro di Iori. In apertura delle pagine di cronaca locale, ancora la sanità. Gli aumenti alla quiete sono colpa del comune, così Udine resta isolata. L'assessore regionale alla salute Riccardi replica le accuse del PD cittadino. Sul Gazzettino Dorso del Friuli sono 2 i titoli forti. Strage dell'ambulanza, arriva il tutor per la velocità e poi l'ho colpito con il calice di vetro, omicidio di Capodanno, la versione dell'accusato ai magistrati. Altri richiami sono ancora per il tema sicurezza, chiesto un tavolo con il prefetto e le forze dell'ordine, e per la sanità. Mancano medici in montagna, ASU FC a ruolo ai pensionati. In una fotonotizia, i saldi, aria di crisi, i negozi li anticipano. Per lo sport, all'Udinese arriva Giannetti e parte il talentino Pafundi. Nel basket, Lamb e Campani per Cividale, che vuole salvarsi. Nell'edizione del piccolo per Gorizia Monfalcone, oltre all'apertura dedicata al caso Resinovic, in prima pagina la scoperta di una discarica vicino al monumento che ricorda la strage di Peteano del 72, gettati nella notte 2 cumuli di sacchi neri dell'immondizia con materiale edile. La stele è in un'area del demanio, ma il terreno è privato. Visionate le telecamere, indagano carabinieri e Digos. E poi la scoperta di un caso di concorrenza sleale. Autisti con licenze a Cormons, ma operativi illegalmente all'aeroporto di Fiumicino e per le strade di Roma. Il noleggio con conducente smascherato e sanzionato dalla polizia municipale. Ammesse corse fuori dal territorio comunale, ma solo a fronte del rientro dell'auto in sede. Per le cronache da Monfalcone, il piccolo annuncia la ricostruzione della nuova casa dei senza tetto, lavori per 1 milione in Largo Isonzo, sarà abbattuta e rifatta la sede del Centro Blu che si chiamerà Polifunzionale, struttura pronta a novembre. La cronaca di Gorizia del Piccolo si apre con la rivoluzione ecologica legata alla realizzazione di nuove stazioni per auto elettriche, assegnati 34 nuovi stalli di ricarica, distribuzione capillare dal centro alla periferia. Sul Messaggero Veneto di Pordenone il titolo principale è sempre sulla carenza di medici, a cui segue un richiamo sulle code al pronto soccorso, un operatore per i parenti. La fotonotizia è invece dedicata alla tragedia di martedì, tutor sulla Cimpello Sequals dopo l'incidente con 3 morti. 2 richiami sono poi per il volontariato in lutto, è scomparsa Franca Bertoia, e per il comune che va verso l'acquisizione del marchio del Pordenone Calcio, notizia con cui si aprono anche le pagine della cronaca cittadina. Il richiamo di cultura è per l'almanacco Pignarol. Dalla magia di Coia ai nomi dell'arte, Tarcento si racconta. Sul dorso di Pordenone del Gazzettino il titolo in alto è per i primi migranti che possono lasciare la Comina. Al centro l'incidente dell'ambulanza con il prefetto che annuncia l'arrivo del tutor antivelocità entro marzo e la voce dell'unica sopravvissuta. Parlavamo, poi all'improvviso il botto. Un altro titolo è per la comunità Sikh che rischia lo stop all'utilizzo del centro di preghiera, mentre quella musulmana non trova l'accordo sulla gestione del centro islamico. A fondo pagina si parla invece dell'app per la benzina agevolata, quasi nessuno la accetta, del bando per il palazzetto di Pordenone che sarà da rifare, colpa di internet, e del branco di cinghiali avvistato in centro a Porcia, paura dopo i danni alle colture. Alle 7.47 proseguiamo con gli appuntamenti, sarà consegnato stasera alle 20.45 nella Sala Margherita di Tarcento il 69esimo premio Epifania, assegnato annualmente per riconoscere il merito di personalità che hanno messo a frutto le proprie capacità per promuovere l'identità friulana nel mondo. A ricevere il premio quest'anno saranno l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, Sante Chiarcosso, organizzatore da oltre 30 anni della Corsa per Haiti, e Silvio Brusaferro per la sua dedizione nella ricerca scientifica e medica. L'anno olimpico della scherma mondiale si apre oggi alla Fiera di Udine, che ospita la quinta tappa della Coppa del Mondo Under 20 Trofeo Alpe Adria, che arriva in Friuli, Venezia Giulia per il 18esimo anno consecutivo. Quasi 1000 gli atleti in gara, arrivati da tutto il mondo per un evento dai numeri importanti, come ci dice il presidente del comitato organizzatore Paolo Menis. Ha dei numeri rilevanti perché siamo arrivati a 940 iscritti in rappresentanza di 60 paesi provenienti da tutti i continenti. È la 18esima edizione, quindi con esperienza consolidata, ma questa volta il tema della sostenibilità dell'evento sportivo è diventato centrale. Infatti sarà la prima manifestazione sportiva internazionale certificata con un ente terzo. Quindi la carbon neutrality è certificata. In gara ci sarà anche un unico ragazzo della nostra regione, che è Alberto Paoletti. Come potrà cavarsela e com'è lo stato di salute del movimento della scherma regionale? Alberto Paoletti è un atleta in chiara crescita, è evoluto moltissimo in questi anni, è un ragazzo promettente, ma soprattutto è tanto appassionato e cura i dettagli nella sua preparazione. Ci aspettiamo dei buoni risultati da lui, ma soprattutto che si ambienti, che cominci a conoscere questo ambiente internazionale, perché è un atleta molto giovane e si affaccia per la prima volta a questo tipo di evento. Già esserci è già un bel regalo, una bella esperienza ed è proiettato al futuro. Il movimento nostro in Friuli, Venezia Giulia, è in crescita, in controtendenza con il dopo Covid, anche rispetto alle altre federazioni sportive. Noi siamo sempre cresciuti in questi anni, addirittura l'estate scorsa si sono aperte due nuove società schermistiche, una a Udine e una a Sacile, e quindi il movimento soprattutto nell'ambito giovanile è assolutamente sano e in crescita. A Lignano inizia alle 9.30 l'edizione numero 25 del Judo Winter Camp, la manifestazione internazionale organizzata dal DLF Yamarashi Udine, che fino a domenica porterà sui tatami del Palabel Italia 1200 judoka in rappresentanza di 16 nazioni, tra cui diversi quelli che saranno impegnati ai Giochi Olimpici di Parigi. Confermata anche l'imponente partecipazione tricolore con atleti e tecnici di 150 società di tutta Italia. Gli spettacoli, appuntamento con uno dei grandi classici del balletto questa sera al Politeama Rossetti di Trieste. Alle 20.30 andrà infatti in scena Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky con le coreografie di Marius Petipa. La storia dello struggente amore fra il principe Siegfried e la dolce Odette trasformata in cigno da un maleficio sarà interpretato dai danzatori dell'Opera di Stato rumena di Iasi, che ha sede nel Teatro Nazionale, considerato uno dei più belli al mondo. Galà Puccini Vincerò è il titolo del concerto che il Piccolo Opera Festival porta in scena oggi alle 20.30 all'Auditorium Comunale di Reana del Royale per omaggiare i 100 anni della morte del grande compositore toscano. Protagoniste della serata sono le intramontabili melodie tratte dalle più celebri opere pucciniane, quali tra le altre Turandot, La Bohème, Tosca e Gianni Schicchi. A interpretarle il soprano Daniele Esposito, il tenore cinese Zi Zhaoguo e il baritono sloveno Jure Počkaj, accompagnati al pianoforte dal maestro Ferdinando Mussutto. Il nuovo anno porta con sé una nuova produzione del teatro La Contrada di Trieste per grandi e piccini. Al teatro Orazio Bobbio, da oggi a domenica, andrà in scena A bordo di un guscio di noce, tratto dall'omonimo racconto di Corrado Premuda, giornalista e autore precocemente scomparso, adattato da Andrea Stanisci. Sipario alle ore 16. Il Levante inquieto, esperienze in Medio Oriente, di Alessandro Tonutti, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. È lui il protagonista dell'incontro che si svolgerà alla Galleria dell'Accademia Città di Udine alle 16:30. Tre gli appuntamenti organizzati per oggi da Orto Teatro. All'Info Point di Piancavallo alle 17:30 Fantalibro, un pomeriggio di letture, racconti, laboratori e giochi per bambini. Sempre a Piancavallo alle 20:45 nella Sala Convegni lo spettacolo Pur Parler, un viaggio attraverso le parole con Anna Gaia Marchioro. A Sappada dalle 11 alle 14 a Nevelandia al laboratorio di lettura Il Luogo Magico e alle 17:30 nella Sala Congressi di Cima Sappada lo spettacolo Schiaccianoci e Il Re dei Topi. Il nostro palinsesto, questa mattina è prevista la conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rai Radio 1 seguirà in diretta l'evento con uno speciale del GR1 dalle 11 alle 13. Per questo l'edizione del giornale radio regionale delle 12:30 oggi non andrà in onda. Regolarmente in onda invece il nostro telegiornale delle 14 e i giornali radio delle 15 e delle 18:30. Anche i programmi radio della nostra sede partiranno più tardi, cominceranno alle 13:29. È tutto per questa edizione redatta e curata e condotta in studio da Daniele Lettig e Andrea Covre. Andate in onda grazie alla collaborazione tecnica di Viola Romanese e Riccardo Ostojic. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.